Gazzettino del 2015. Gazzettino del 2015. 23 marzo 2015, boom della produzione agricola. La Cina raggiunge l'autosufficienza alimentare. L'obiettivo, fissato nel 2011, era di arrivare entro quest'anno ad oltre 540 milioni di tonnellate di cereali prodotti per conquistare l'autosufficienza alimentare. Un obiettivo sostanzialmente già raggiunto. Il Ministero dell'Agricoltura cinese ha infatti annunciato che il piano di sviluppo dell'agricoltura moderna ha raggiunto i livelli di produzione previsti. Fin qui la notizia del 23 marzo 2015, ma come sapete il futuro ha radici nel presente, in questo 2012. La conquista dell'autosufficienza alimentare è un obiettivo fondamentale di tutto il pianeta, ma sui mezzi per raggiungere questo obiettivo il dibattito è aperto. Non tutti ritengono infatti che la via dell'aumento massiccio della produzione agricola e zootecnica, che ha anche pesanti costi ambientali, sia la strada giusta. Paolo Palmerini, responsabile cooperazione della ONG CHAI, Centro Italiano Aiuta all'Infanzia. La nostra analisi, l'analisi di CHAI, è che il problema della sicurezza alimentare abbia sicuramente una componente molto importante di accesso alle risorse, di distribuzione delle risorse e non soltanto di quantificazione assoluta delle risorse prodotte, che secondo alcuni studiosi già adesso sarebbe sufficiente per rispondere ai bisogni principali. Il nostro approccio proporzionato alle nostre dimensioni punta sullo sviluppo delle risorse delle comunità locali per aiutarle a rendersi autosufficienti dal punto di vista della produzione alimentare, attivando dei meccanismi che permettano di ottenere una produzione completa, il più possibile diversificata, che risponda pienamente ai bisogni nutrizionali dei bambini, soprattutto, che sono il nostro ambito di interesse principale. Queste esperienze le stiamo portando avanti ormai da anni in progetti diversi, in Etiopia, in Burkina Faso, in Vietnam, ottenendo dei risultati incoraggianti, introducendo nuove produzioni, nuove prassi, valorizzando a volte quelle che sono le abitudini tradizionali che sono state indebolite. In Etiopia, per esempio, abbiamo introdotto questi orti in questa comunità che tradizionalmente, solo poche generazioni fa, era una comunità nomade e quindi non ha delle tradizioni agricole consolidate. Noi abbiamo inserito l'utilizzo di orti, introducendo coltivazioni molto semplici di zucchini, di alcune specie di vegetali che possono dare un buon rendimento nelle condizioni locali, a volte generando anche dei comportamenti non prevedibili. Pare che il basilico sia stata una verdura che ha avuto un grandissimo successo in Etiopia per un uso leggermente diverso da quello che potremmo pensare, non nella pasta ma nel caffè. È tutto per questa puntata del Gazzettino del 2015, condotta da Anna Rita D'Ambrosio e curata da Paolo Piacenza. Se volete scriverci, potete farlo all'indirizzo mail gazzettino2015@radio24.it.